Aha. J-O-L-L-I-L 2009 Roma Jolly LC Steel. Aha, aha, aha. Sì, nevrosi, yeah. Sì. J-O-L-L-I-L sentito il fiato della vita che si accanita, che ti mangia e che rispinge il tuo culo in salita. Gli ultimi giorni che ti presta sono omaggio, sai che ci faccio, mi segno di quasi esultaggio. C'è solo il buio, rimani da solo in questo gioco di merda, la sola tattica era del suolo. È dura, nati per aver paura, combatti nei momenti dove l'anima diventa scura. E ora guardati le spalle, se sei un ribelle, F-U-C-K all sulla mia pelle. Figlia di puttana, io ti affronto, oh, ready for whatever. Bitch, guarda, sono pronto per prendere la vita a calci e colpire di testa. Non basta ciò che lei mi offre, no, non mi interessa. Sembra spento, ma in realtà quel fuoco è vivo. Benzina e kerosene, stai pur certo che non mi avvicino. E non pensare a chi ti dice, dai su basta, state buoni. Tu mostra bene i denti e vattene di fuori. E non pensare a chi ti dice, resta calmo, son coglioni. Il pugno alle tue armi e vattene di fuori. Tutti fuori, tutti fuori, andiamocene tutti fuori. Non rimanere dentro brosse. Tutti fuori, andiamocene tutti fuori. Lo senti il fuoco dentro bro e vai. Senti il tempo che scandisce le tue dosi. Battito, clic, clic, ferma il tempo, c'è nevrosi. Mi sveglio la mattina con in testa una puntina che gira. E respiro solo l'aria negativa che gira. Sono in linea con la linea schiva e punitiva, riflessiva. Ma penso al domani, intanto quello arriva. Sì, domani cambierai, ma avrai 20 ore in meno alla vita. Che sia malata o no, non c'è una via d'uscita attiva. Per oggi batto sui battiti e voglio soldi per la mia saliva. Scene fittizie, parole redditizie che viziano come vedere chi è che le dipinge. Frasi da duro da spinge, che non hanno riscontro però nel tizio che le spinge. Perciò andiamocene tutti fuori strada coi coglioni. In guerra contro gli abbaglioni a colpi di sti suoni. Andiamocene tutti fuori strada coi coglioni. In guerra contro gli abbaglioni a colpi di sti suoni. Sì. Ok? È il boom boom check, man. Sì. Sì. È il boom boom check, check, oh man. Boom boom check, check, yo man. Boom boom check, check, yo man. Boom boom check, Jolly LC. Nevrosi, Bullshit, Jolly L 2009, sì. Dalla capitale, uh-huh. E siamo fuori finalmente.